Siamo in una domenica davvero speciale. Io credo che quello che il Signore vuole fare stasera ha dello straordinario. E io credo che tu sei qui per ricevere qualcosa di straordinario. E questo parte dalla tua fede, dal tuo credere nella verità della parola di Dio. E sai, la parola di Dio è verità. La Bibbia è verità. Però tu puoi decidere se prendere questa verità per buona in una determinata percentuale, se prendere per buona la parola di Dio al 100% o se escluderla completamente dalla tua vita. E a secondo di quanto tu scegli di vivere la pienezza della parola di Dio, la pienezza della verità biblica nella tua vita, tanto più vivrai quella vita speciale alla quale il tuo creatore ti ha destinato e per cui ti ha creato su questa terra. Quindi è così fondamentale che noi domenica dopo domenica apriamo la parola di Dio e ci mettiamo in discussione. È importante metterci in discussione, è importante guardare davanti a quello specchio e dire: sto rappresentando tutto quello che Dio vuole che io rappresenti? Sto vivendo tutto quello che Dio ha riservato per me su questa vita? Mi sto cibando della verità per poi viverla durante la settimana? E questa analisi ci fa solo bene e rispondere anche ad appelli e dire: io voglio scegliere a partire da stasera di vivere una vita nuova a seconda della rivelazione nuova che di volta in volta ricevi della parola di Dio. Questo porterà vittoria in te. E non mi stancherò di dirlo, perché vedo persone che camminano secondo la volontà di Dio, rispecchiando la parola di Dio, e non posso negare che Dio è vivo oggi e tutto quello che Lui dice è vero e porta benedizione. E queste persone sono una testimonianza vivente e camminano forti di questa testimonianza e vanno avanti non un anno, vanno avanti decenni, e tu vedi che la loro vita si distingue dalle tante altre vite. E poi c'è la massa, e poi c'è la società, e poi ci siamo a volte anche noi che non ci distinguiamo da questa massa, da questa società, e facciamo l'esatto contrario di quello che ci viene rivelato dalla parola di Dio e cominciamo a soffrire, cominciamo a pagare le conseguenze del peccato e di una vita che non è ravveduta, di una vita che non è cambiata e non è trasformata a seconda della parola di Dio. Ed è per questo che come Chiesa noi dobbiamo scegliere radicalmente di mettere avanti Cristo Gesù e dire: io scelgo di essere suo discepolo e fare quello che Lui mi ha chiesto di fare. Gesù ha detto: se vuoi essere un mio discepolo, rinuncia a te stesso, prendi la tua croce e seguimi. E questo prevede che tu rimani dietro e Cristo si mette avanti. E tu segui colui che è avanti, che non sei tu, che non è l'opinione della maggioranza, che non è quello che ti dice la televisione, che non è quello che ti dicono i mass media, ma è quello che Gesù ti dice. E lì diventi discepolo, e lì cominci ad essere benedetto, e lì vivi quella vita straordinaria che Dio ha per te. E io prego, è la mia preghiera intercessione, che la nostra Chiesa non possa essere una Chiesa di credenti domenicali, ma possa essere una Chiesa di discepoli di Cristo Gesù, nella vita dei quali è evidente che c'è rinuncia, c'è uno spogliarsi, un rinunciare a loro stessi, è evidente che c'è un prezzo che viene pagato, ci si indossa di quella croce, della volontà di soffrire, della volontà di rinunciare anche alla propria stessa vita, ma è evidente anche che camminano in una gloriosa strada che è quella segnata dal Maestro che è davanti a noi. La mia preghiera è che noi possiamo essere una Chiesa costituita da tanti discepoli di Cristo Gesù, che vanno esattamente dove Gesù, il Maestro, ci indica di andare. E questa è la tua scelta, questa sera è la mia scelta. Io voglio morire a me stesso, rinunciare a me stesso e seguire Cristo Gesù. C'è così tanto peccato attorno a noi e talvolta anche in mezzo a noi e dentro di noi. E schifa addirittura me stesso guardarmi allo specchio e vedere quelle macchie presenti nella mia vita. E ogni qualvolta le vedo, non devo far altro che riconoscere che quelle cose sono feccia, sono spazzatura, sono cose inutili che non mi porteranno da nessuna parte, anzi mi porteranno dove queste cose portano la maggioranza a vivere, nella morte spirituale, nella depressione, nelle vie che sono confusionarie e sono disorientate e le vediamo attorno a noi nelle nostre vite. Noi dobbiamo decidere come Chiesa di camminare in novità di vita e di camminare santificandoci e seguendo la via che Gesù ha tracciato. Amen? Queste cose non stavano segnate nei miei appunti. Ci sta un applauso. Però sentivo di dirle. E forse questa è proprio una decisione che devi fare, quindi perché non la facciamo in questo momento? Forse in questo momento tu devi decidere, dire basta, ancora una volta basta, basta al peccato, basta al compromesso, basta alle zone grigie della mia vita, basta a tutto quello che mi porta a vivere da una parte Cristo e dall'altra il mondo. È quello che tutti vivono. Vogliamo pregare un attimo? Io voglio pregare per ciascuno di noi, che questa possa essere la nostra decisione in questo momento. Gesù, grazie perché tu hai voluto dire queste cose. E io prego che a chiunque tu abbia voluto parlare in questo momento, tu possa portare la tua azione di grazia, che loro possano sentire il tuo amore nella tua riprensione. E che nella riprensione, nell'amore che tu rivolgi a loro, tu possa riportarli a quella retta via dietro di te. Gesù, voglio chiederti di stare avanti e di permettere a ciascuno di noi di metterci dietro, perché questo è il posto migliore nel quale possiamo ritrovarci nella nostra vita. Grazie Gesù. Amen. Amen. Bene, andiamo al messaggio che abbiamo per questa sera. Siamo pronti per il messaggio di questa sera? Ci sono delle domande nella vita che ci vengono rivolte, che sono cruciali. Ci sono delle domande che sono veramente importanti. Vi è mai capitato, avete mai riflettuto su quelle domande che ti vengono poste e determinano un primo e un dopo nella tua vita? Probabilmente anche una di queste domande è: vuoi accettare Gesù? Quando tu hai risposto e hai detto sì, quello è stato cruciale. Ha segnato un prima e ha segnato un dopo, perché dal momento in cui hai ricevuto Gesù tutto è cambiato, no? Però ci sono altre domande, no? Quando dovevo pensare, vai a fare degli acquisti speciali, devi comprare una nuova macchina oppure quel vestito tanto caro per quel matrimonio, no? E stressi il commesso facendoti uscire tutto il guardaroba, tutto il magazzino presente e non presente in tutta Italia, chiamate a destra e a sinistra, Bartolini, consegne, sedia, vengono tutti i vestiti di quella marca, finalmente sei davanti a quel vestito e il commesso ti dice, speranzoso, allora lo prendi? E tu sei lì che ti batte il cuore e dici no, forse mio marito non sarà d'accordo, forse mia moglie non sarà d'accordo, costa troppo, però sei spinto da due parti, da una parte lo vuoi con tutto il cuore, dall'altra conti i soldi e dici sono troppi e poi dici lo sapevo, le donne dissero tutte le donne dissero, gli uomini invece dissero, c'è sapienza nel sesso maschile, grazie a Dio per questo. Oppure davanti a quello che è un contratto importante, no? Io quest'anno mi sono ritrovato davanti alla scelta di prendere casa, di affittare casa. Ed è una scelta importante perché sai che in quel momento ti viene chiesto, no? Allora ti convince abbastanza. E sai che quel ti convince abbastanza non è semplicemente esprimere la tua opinione, ma è prendere una decisione. E io davanti a decisioni importanti a volte mi ghiaccio, divento proprio un ghiaccio, non so se dire sì, non so se dire no, non so se dire ma, forse, e quelli sono dei momenti cruciali. Oppure quando, per chi si ricorda ancora, andando a scuola, arrivavi, eri convinto che il professore o la professoressa non interrogasse quel giorno, E la professoressa si rivolge alla classe e dice: allora ragazzi, avete studiato? Traumatica come domanda, avete studiato? E in quel momento sentivi cadere le penne, matite, gomme, no? Persone che erano lì a cercare queste matite, queste penne, mezz'ora sotto al banco perché non si trovava la matita caduta, no? E speravi che il professore non ti vedesse. C'è una domanda cruciale che l'Apostolo Paolo fa a un gruppo di uomini credenti ad Efeso. La vogliamo leggere insieme, è una bellissima storia. Per comprenderla bene, vorrei leggere con voi tutto questo brano che parte dal ministero di un uomo chiamato Apollo. Un uomo, vabbè lo so, è un nome un po' strano, però va bene, non è Apelle figlio d'Apollo, già so che è partita la cantilena nella vostra mente. No, Apollo era un ministro di Dio, un predicatore della parola, molto efficace. E quando predicava, lui era molto convincente, però aveva una mancanza, almeno nella prima parte del suo ministero, non aveva piena conoscenza di tutta la verità che c'era nel seguire Cristo Gesù. E quindi leggiamo insieme quello che è l'arrivo dell'Apostolo Paolo e la domanda che l'Apostolo Paolo fa a questi discepoli che avevano accettato Gesù, avevano ricevuto buone nozioni da Apollo, ma qualcosa mancava. E quindi l'Apostolo Paolo fa una domanda cruciale, la leggiamo insieme. Leggiamo da Atti, capitolo 18, dal versetto 24, che dice: ora un giudeo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Aveva conoscenza solo di un battesimo. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, altri servi di Dio, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Ora leggiamo di Paolo. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso, dove era Apollo, e vi trovò alcuni discepoli. E gli pose loro questa domanda. Egli disse loro: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Egli disse: con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Essi risposero: con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù e avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Apostolo Paolo poteva fare a questo gruppo di uomini tante domande. Erano credenti, avevano accettato Gesù. Avrebbe potuto chiedere loro: beh, come sta andando? Avete già scelto un locale nel quale incontrarvi e fondare la chiesa? Avete già un gruppo lode? Vi state organizzando per dividervi in gruppi familiari? A proposito, apro una parentesi, questa è la settimana dei gruppi familiari. Troppo bello, noi come chiesa ci riuniamo in gruppi familiari per non essere dispersivi in quello che viviamo, ma per permettere allo Spirito Santo di ministrare in incontri più contenuti nei quali possiamo relazionarci, pregare gli uni per gli altri. Un suggerimento, un incoraggiamento che voglio darvi, l'ho dato anche già stamattina, con tutto il cuore, il mio suggerimento è non andare al gruppo familiare per ricevere. Vai al gruppo familiare per dare. Vai al gruppo familiare pregando prima a casa e chiedendo allo Spirito Santo che cosa posso io dare ai miei fratelli, alle mie sorelle che si riuniranno in casa. Come posso io pregare per loro? Qual è l'intervento? O hai una parola per me, Signore, che io posso trasmettere in questo contesto? Andiamo ai nostri gruppi familiari non per ricevere, perché sennò questo farebbe perdere il vigore di questi incontri, ma andiamo tutti dal primo all'ultimo per dare, non per ascoltare il capogruppo che deve farci un altro messaggio, perché questo non è l'obiettivo. L'obiettivo è vivere un tempo di comunione fraterna dove insieme possiamo condividere la parola, pregare gli uni per gli altri e anche esercitare i doni dello Spirito Santo. Quindi questa settimana vai al gruppo per dare. Capogruppi, c'è il foglio guida che potete ritirare al punto info, è uno strumento per guidare al meglio il gruppo che si riunirà questa settimana in casa tua. Ora, tornando alla domanda dell'Apostolo Paolo, tante potrebbero essere state le domande dell'Apostolo Paolo, forse ha fatto queste domande l'Apostolo Paolo, però ce n'è una che in modo particolare l'autore ci tiene a scrivere e a riportare in Atti degli Apostoli. Ed è questa domanda che abbiamo appena letto, è la domanda, la curiosità, l'interesse dell'Apostolo Paolo per i credenti di Efeso se avessero o meno ricevuto il dono dello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo ci tiene a chiedere: avete voi ricevuto il dono dello Spirito Santo nella vostra vita? E questa è una domanda che io vorrei ribaltare a ciascuno di noi. La mia domanda a te è: hai ricevuto il dono dello Spirito Santo? Ora, quando ricevi il dono dello Spirito Santo, vieni riempito letteralmente della terza persona di Dio. Perché noi sappiamo che Dio è Padre, Figlio ed è Spirito Santo. E lo Spirito Santo è un dono che Gesù ci fa e che ci dà la possibilità di essere riempiti della pienezza di Dio nello Spirito Santo a tal punto da straripare. Questo è come Gesù lo descrive, da straripare, perché non possiamo contenere la pienezza del vigore e della potenza dello Spirito Santo in noi. Quindi, probabilmente, molto probabilmente, l'Apostolo Paolo, osservando questi credenti, si è reso conto che loro non avessero lo Spirito Santo. E quando una persona ha lo Spirito Santo in sé, si vede, perché lo Spirito Santo nella vita di un credente permette al credente di parlare in una maniera diversa. Lo Spirito Santo nella vita del credente permette al credente di agire in una maniera diversa. Lo Spirito Santo nella vita del credente permette a quel credente di essere potenziato e vivere una dinamica di vita cristiana molto diversa. Ed è per questo che è così importante. È importante per l'Apostolo Paolo, ma è importante anche per i discepoli, per gli altri apostoli. Infatti lo leggiamo in Atti al capitolo 8 dal versetto 14. In questa porzione di Bibbia che abbiamo potuto anche leggere accuratamente durante casa di preghiera, per chi c'era, durante la casa di preghiera che abbiamo fatto lo scorso mese, abbiamo analizzato queste parole, abbiamo analizzato questi versi e li vorrei rileggere con voi. Si trovano in Atti, capitolo 8, versetto 14, e lì leggiamo: allora gli apostoli, che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Mi seguite? È favoloso, è meraviglioso vedere l'Apostolo Paolo, avendo conoscenza dello Spirito Santo, questa è la prima domanda che fa a questi credenti di Efeso. Così i discepoli, saputo che a Samaria in molti credevano, erano battezzati e lì avvenivano miracoli per mano di Filippo, mandano due apostoli, Pietro e Giovanni, a fare questa trasferta, che è una trasferta abbastanza importante, è una trasferta di 50 chilometri. Ora, so che per noi oggi non significa niente. C'è qualcuno di Mottola qui questa sera, abbiamo Alessandra. Solo Alessandra. Grazie Alessandra di essere venuta. E lei ha fatto 60 chilometri per essere in mezzo a noi. Siamo grati ad Alessandra per questo. È bello averti e grazie per lo sforzo che fai nell'essere con noi. Possiamo fare un applauso così nel frattempo? Ma all'epoca fare 50 chilometri, 60 chilometri era molto diverso. Non c'erano macchine, non c'erano motori, non c'erano mezzi di trasporto. Queste persone a piedi per 60 chilometri sono andati in Samaria. Questo probabilmente ha richiesto un'intera giornata di cammino, se non due. E questi discepoli vanno appositamente a 50 chilometri di distanza perché? Perché vogliono assicurarsi che i samaritani ricevano il dono dello Spirito Santo. È importante il dono dello Spirito Santo, è fondamentale il dono dello Spirito Santo e lo è anche per Giovanni Battista. E qui forse vi si possono aprire gli occhi e proprio la mente, perché a me mi ha sconvolto pensare quanto fosse importante per Giovanni Battista il dono e il battesimo nello Spirito Santo per lui stesso, che né l'aveva sperimentato né sapeva di che cosa stesse parlando. Ma noi sappiamo che Giovanni era un profeta e quindi lui ha anticipato profeticamente l'importanza di questo dono a tal punto da presentare Gesù in questa maniera. Lo leggiamo insieme in Marco capitolo 1 versetto 7, dove noi leggiamo: e predicava dicendo, questo Giovanni Battista, lo dicevo anche stamattina, Giovanni Battista, Battista non è il cognome di Giovanni, ok? Battista significa che lui battezzava. E il termine originale di battezzare, baptizo in greco, significava immergere. E quello che Giovanni il Battista faceva era immergere nell'acqua le persone che decidevano di ravvedersi dei loro peccati e avevano aspettativa per colui che doveva venire dopo di lui, cioè Gesù, che era il Messia profetizzato da Giovanni Battista. E quindi Giovanni diceva: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi e sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà, diciamolo insieme, con lo Spirito Santo. Giovanni il Battista presenta Gesù quale un secondo Battista. Giovanni sta dicendo: io sono un battista e battezzo nell'acqua, ma colui che sta venendo dopo di me, che è più importante di me, è un altro battista e lui vi battezzerà di un battesimo ancora più importante, che è il battesimo nello Spirito Santo. Che cosa sta dicendo Giovanni? Giovanni sta dicendo: quello che Gesù farà è portare coloro che credono in lui ad essere immersi nella pienezza della terza persona di Dio, immersi nello Spirito Santo, avvolti, bagnati completamente dallo Spirito Santo e poi anche riempiti dello Spirito Santo. L'apostolo Paolo, i discepoli, Giovanni Battista davano tutti estrema importanza al battesimo nello Spirito Santo. Naturalmente anche Gesù ha dato un'importanza enorme a quello che era il dono dello Spirito Santo che sarebbe sceso sui suoi discepoli. E quindi ci sono tanti insegnamenti, non avremmo tempo per andare a leggere tutto quello che Gesù dice sul dono dello Spirito Santo, sul Consolatore, su colui che verrà dopo di lui. Però voglio citare per voi un verso che sono convinto che anche voi conoscete, ed è Giovanni che istruisce i suoi discepoli in Atti capitolo 1 dal versetto 8 dicendo: voi Anzi, lo leggiamo da prima, dal versetto 4, dove dice: trovatosi con essi, ordinò loro di non lasciare Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse Gesù, avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Qualche verso dopo, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quello che noi comprendiamo da questo verso è che Gesù dà importanza al battesimo nello Spirito Santo non per quello che è un episodio singolo che poi andremo a leggere nel capitolo 2 di Atti, non per quella che è l'esperienza importantissima, bellissima, della discesa dello Spirito Santo sui discepoli, in lingue di fuoco, in soffio di vento, quello che avviene anche a noi nel momento in cui noi veniamo battezzati nello Spirito Santo, che ci sentiamo riempiti, fortificati. Ma Gesù dice: il battesimo nello Spirito Santo non è importante per il giorno del battesimo stesso, ma è importante perché vi potenzia e vi dà autorità di poter vivere il resto della vostra vita in un'autorità diversa, mossi e animati da una motivazione diversa, mossi e animati da una capacità diversa, mossi e animati, equipaggiati dalla potenza dall'alto, che è proprio quella di Dio. La potenza di Dio vuole scendere in noi per permetterci di essere testimoni di Cristo Gesù. Ed essere testimoni di Cristo Gesù non significa semplicemente annunciare l'Evangelo, no, come io sto facendo in questo momento. Dichiarare le cose belle che Gesù ha fatto. Dichiarare che Lui è morto ed è risorto e che in Lui abbiamo la speranza di una vita eterna. Ma testimoniare di Gesù significa anche poter vivere quella vita straordinaria che Gesù ha riservato ai Suoi figli da poter vivere. Tu, su questa terra, nel 2016... credendo in Cristo Gesù e potenziato mediante il dono dello Spirito Santo, hai la possibilità di vivere una vita straordinaria. Tu nel 2016, oggi, nella società in cui ti trovi, con le persone con le quali lavori, hai la possibilità, nella potenza dello Spirito Santo, di distinguerti. Tu oggi hai la possibilità di avere un'autorità che è la stessa autorità che Cristo Gesù ha avuto, di rispondere, di intervenire anche a uomini di potere, anche a uomini che credono di sapere tutto, perché lo Spirito Santo vuole dimorare in te e vuole agire per mezzo tuo potentemente. Per questo è importante il dono dello Spirito Santo. Ed è per questo che Gesù dice ai Suoi discepoli: aspettate l'attuazione della promessa. Non andate ancora a predicare l'Evangelo, non andate ancora a fondare chiese, non andate ancora a rispondere a quella chiamata di vita che voi sapete che siete destinati a vivere. Non andate ancora e non vi muovete ancora nella direzione profetica che c'è per la vostra vita, ma aspettate di poter essere potenziati di quella potenza e di quell'autorità che viene dall'alto nello Spirito Santo. E questo è quello che Dio vuole dire a noi come Chiesa oggi. Questo è quello che Dio vuole dire a te e a me questa sera. Come stai vivendo? Dopo aver creduto, hai ricevuto lo Spirito Santo. Puoi dire di essere ripieno di Spirito Santo. Quello che sono i versi che abbiamo appena letto dimostrano che tu puoi vivere una vita nella fede in Cristo Gesù, ma puoi dimostrare di non aver ricevuto lo Spirito Santo. E anche se sei stato battezzato nello Spirito Santo, probabilmente la tua vita non parlerà del fatto che sei ripieno dello Spirito Santo se lo Spirito Santo non ha forza di poter agire dentro di te, non ha libertà e non è rattristato in te. È per questo che in Atti, capitolo 6, noi leggiamo che gli apostoli chiedono all'intera Chiesa di andare a cercare 7 uomini fedeli che potessero rispondere a un incarico speciale. Niente di che, servire alle mense. Però per questo incarico loro chiedono che abbiano tre caratteristiche. La prima è una buona testimonianza. La seconda caratteristica, che siano ripieni di Spirito Santo. La terza, ripieni di ogni sapienza, che se vogliamo è una conseguenza dell'essere ripieni dello Spirito Santo. E io mi chiedo, nel momento in cui Dio guarda attorno a noi, in questa sala, sta trovando discepoli, figlie sue, figli suoi, dei quali può dire, lui è ripieno dello Spirito Santo. O addirittura se io dovessi fare un appello, no? In accordo con quello che è Atti 6, e dire, ragazzi, chiesa, cerchiamo 7 uomini fedeli che abbiano queste 3 caratteristiche. Come andresti a cercare persone che sono ripiene dello Spirito Santo? Io me lo sono chiesto. Non è che passa davanti a me e dice, Mirko, no, non è pieno dello Spirito Santo. Andiamo oltre, Andrea, sì. Se sei pieno dello Spirito Santo, le persone lo vedono attorno a te. E Dio ti dà il diritto di poter essere pieno di Lui. È una promessa. La domanda di Paolo è, riceveste voi il dono dello Spirito Santo quando credeste? Ricevere è qualcosa che ci parla di un dono. Ricevere è qualcosa che ci parla di accettare qualcosa che ci è stato dato. Il dono dello Spirito Santo è qualcosa che ci è dato, è una promessa mantenuta, perché le promesse di Gesù sono sempre mantenute, Lui ha mantenuto la promessa, è quella che la promessa anticipata già in Gioele è mantenuta ed è viva oggi, e sopra ciascuno di noi c'è questo dono, sopra ciascuno di noi c'è questo dono meraviglioso che è la promessa di essere ripieni dello Spirito Santo. E Dio sta dicendo, l'hai ricevuto o non l'hai ricevuto? Perché un dono è ricevuto nel momento in cui tu lo prendi, lo scarti e te ne appropri e cominci ad usarlo. Questo è un dono ricevuto. E io credo che il Signore sta chiamando la nostra Chiesa ad essere una Chiesa ancora più piena dello Spirito Santo. Non ho dubbi che abbiamo lo Spirito Santo. Non ho dubbi che la maggior parte di noi è battezzato nello Spirito Santo. Non ho dubbi che di molti di noi si può dire con estrema evidenza che siamo ripieni di Spirito Santo, ma c'è di più. Perché stiamo parlando di Dio in noi. Stiamo parlando dello Spirito Santo che permette a noi di fare molto di più di quello che abbiamo visto finora. E il Signore sta chiamando la nostra Chiesa a un tempo nuovo, nel quale noi non ci appropriamo di più forze intellettuali, di più forze che derivano da noi stessi, dalla nostra esperienza e dalle nostre capacità, di più autorità che è dovuta al nostro stringere i denti, farci forti, impettirci e affrontare le circostanze della vita. Gesù sta chiamando una Chiesa che si arrende, che ha fame, dice io ho sete di te, voglio di più dello Spirito Santo nella mia vita. Scendi Spirito Santo, riempimi Spirito Santo, fai piazza pulita nel mio cuore Spirito Santo, fatti spazio, allargati dentro di me, fluisci in me e attraverso di me per la benedizione di molti altri. Questa sera tu sei nel posto giusto, nel momento giusto, per ottenere un dono prezioso, anzi per prendere quello che è un dono che già ti è stato dato, il dono dello Spirito Santo. Vogliamo alzarci in piedi? Forse sei già stato battezzato nello Spirito Santo. Forse già è successa questa cosa, che hanno imposto le mani su di te. E hai sentito quel fuoco, quella presenza di Dio dentro di te che ti ha riempito, e poi hai cominciato a parlare in nuove lingue, hai potuto cominciare ad agire animato da una forza nuova che non conoscevi, hai cominciato a camminare con una potenza che non potevi descrivere e sapevi che non era tua. Forse hai vissuto tutto questo, ma il battesimo nello Spirito Santo io credo che non è molto diverso dal battesimo in acqua. Tu sei stato bagnato quel giorno. Tu hai dichiarato con quell'atto, nel battesimo in acqua, di morire alla tua vecchia vita e di risorgere in novità di vita. Eppure il battesimo non ha importanza solo per l'atto pubblico che si fa in quel giorno che ancora tu ricordi, ma il battesimo ha importanza perché crea in noi una memoria e crea in noi una scelta che si rinnova ogni giorno. E il battesimo in acqua ha valore nella misura con la quale tu riporti quel battesimo nella tua quotidianità e continui a scegliere di morire a te stesso e risorgere in Cristo Gesù e camminare in novità di vita. La stessa cosa vale per lo Spirito Santo. Hai ricevuto quell'unzione, hai ricevuto quella preghiera, hai ricevuto quella potenza, ma il Signore dice: torna quel giorno. Torna quel giorno perché io voglio riempirti di me. Torna quel giorno perché io ti voglio dare potenza per camminare esattamente come io ho camminato, in autorità, in controllo, in forza, non sottomesso alle circostanze, ma in una potenza tale da influenzare le circostanze attorno a te. Vogliamo cominciare a pregare. Io sono convinto che abbiamo fame questa sera. E vogliamo questo dono. Allora posso chiederti di alzare le tue mani, se vivi questo tipo di arresa con me, alza le tue mani e comincia tu stesso a concentrarti su Dio, perché Lui è presente, Lui ascolta le nostre preghiere e vuole che noi cerchiamo Lui personalmente, non attraverso il tramite di un'altra persona. Non avete bisogno di me, hai bisogno tu di fare una scelta questa sera, di metterti in sintonia con Dio, di cercare la sua faccia e di cercare tu stesso la pienezza dello Spirito Santo nella tua vita. Quindi in questo momento comincia tu stesso a fare la tua preghiera e a richiamare l'attenzione di Dio su di te e a dire: Spirito Santo, io voglio di più di te, io voglio di più di quella presenza, io voglio di più di quella potenza. Lo vogliamo fare mentre siamo guidati anche in un tempo di adorazione. Cerchiamolo insieme. Forza, se parli già in nuove lingue, se hai questo dono da parte dello Spirito Santo, esprimiti in nuove lingue, perché in questa maniera apri un canale che è un canale di comunicazione diretta con Dio. Parli direttamente con Dio in una lingua che tu stesso non puoi capire, ma che ti connetti a Lui in un'intimità più profonda, più efficace, perché la Bibbia dice che chi parla in nuove lingue edifica se stesso. Quindi vogliamo farlo in questo momento. Alza la tua voce dovunque ti trovi e lodiamo, preghiamo, cerchiamo la pienezza dello Spirito Santo.